chiaramente io ero rimasto fermo allo stadio Giglio della Reggiana, ti ricorderai? Sì, certo, certo. A carte volate, tanto per cambiare, questo è una prima volta a livello di grandissimo club che fa ben sperare, anche se contiene molti misteri. Vedremo cosa succederà adesso che la Juventus ha lo squadro e non ha, ha lo stadio e non ha ancora la squadra. Quando aveva la squadra di proprietà non aveva lo stadio. Come un po' la storia di Amauri, Gigi, quando c'era Amauri non c'era il passaporto, è arrivato il passaporto e scomparso Amauri. Quindi a Torino sponda Juventus succedono di queste cose, non bisogna dimenticare in questo caso che è un progetto, non tanto il progetto quanto l'idea parte dagli anni 80 da Gian Piero Boniperti, sì. Ma venne stoppato addirittura da Cesare Romiti, poi la questione è stata ripresa da Antonio Giraudo che è riuscito diabolicamente, scandalosamente, ognuno metterà l'avverbio che più gli garba, convincere Sergio Chiamparino a farsi concedere per 99 anni l'area delle Alpi a 25 milioni di euro. Sì. E poi l'ultima pedalata data Jean-Claude Blanc e vediamo questo stadio da 41.000 posti, che penso che sia la cadenza giusta per uno stadio così cannibalizzato dalla televisione. Vediamo quali frutti porterà e soprattutto se aiuterà anche le altre squadre, le altre società a buttarvici sopra.